5 minuti prima bambini da Sindiluduni, perché ero qui con i canarini e quindi c'era un po' di QRM, si dice, un po' di, si sentivano tipo donne tedesche o spagnole e niente, allora nella giusta du chiamai e l'ho acceso poco fa di nuovo, 15 minuti fa. Sì. Va bene. Zenni. Cosa ho provato? Il Jack, ho provato là. Ne ho comprato due e avevano la ghiera della flettatura appena più larghetta, quindi avvistavano a vuoto, cioè nel senso che non avvistavano. Poi ne ho preso altri due ed erano appena più tristi, cioè erano i bari, era veramente dura e non avvistavano. Adesso ne ho comprato altri due, penso che siano idonei, perché ho chiamato dove ho comprato l'antenna e mi ha detto che ci voleva tipo PL259 in VHF a stacco, non so come, comunque li ho trovati, costavano 2,50 euro l'uno, ne ho preso due. Dovrebbero arrivare inizio settimana, forse martedì, lunedì, capisco. Così attacco questa antenna e vedo un po'. E poi ho comprato un Baufen, si chiama, in questi radiolini, tre frequenze, l'ho preso verde, mi ha mandato il link Gavino e l'ho comprato da Temu mi pare si chiama, costava 46 euro mi pare, e con lo sconto di 15 euro l'ho pagato 31 euro. Capo, sì. Sono quei Baufen, quei piccolini, quelli c'hanno, sono dual band. No, il triband è quello che ho preso io, e un triband c'è scritto 10 watt nei bar. Buono, è bello allora. E mi dopo se carico l'immagine te la mando. Ehi capo, sì. Aspetta, triband è buono, allora quello lì forse prende anche l'aeronautica. E infatti mi stava dicendo che posso ascoltare anche per scriverci qualcosa del genere, poi c'è il PDF delle istruzioni e poi mi ha detto che già me lo dice lui, che magari quale frequenza scrivermi per impostarlo. Così attacco l'antenna e almeno con quello lì posso, si può dire, ascoltare diversamente, dai, diciamo così. Sì, ci sono altre tante cose da ascoltare, ci sono. Sì, però ci vuole sempre l'antenna sul tetto per ascoltare. Ehi, infatti, però sino a quando non mi arriva quel piccolo jack da attaccare all'antenna con il filo, è inutile che attacca a mica, compreso, rimane attaccata senza nulla. Adesso come mi arriva il jack, me lo prova da vedere mio fratello e poi mi piazza l'antenna, la mette all'altro lato della parete e penso che andi a avere, tanto è 1,50 m mi sembra quella, 1,60 m più o meno. Sì, già va bene, tanto tu sei in alto, sì, lo stesso, e io ce l'ho bassa lo stesso, non è che ce l'ho così alta, ce l'ho bassa, però sono in alto e mi va bene. E infatti poi se magari al limite è quello che avevo preso, l'HF o VHF come si chiama, già c'ho già uno che se è già si rubiglia, 100 euro come l'ho pagato io glielo do, tanto è un ex carabinieri o ex poliziotto, penso che lui lo potrebbe usare. Non lo so se lo può usare, se c'è la patente del radiatore sì lo può usare, ma se non è la patente neanche, perché il carabiniere mica lo può usare, neanche lui lo può usare. Va bene, avanti, chi vuole entrare? Buongiorno Gavino, ben ascoltato. Avanti Gianni. Eia, buongiorno, ciao Gavì. Poco fa ti sentivo provando radio prima di entrare Franco, 10 minuti fa da, e io ero sul 5, stavo parlando con Simone Toscania, non so, Gugare. Buongiorno, buongiorno. Sì. Va bene, perché ho notato una cosa, in AM scende a 1,5 watt scende. No, io stavo uscendo bene comunque, non sei mancato per niente, non sei mancato. Sta andando bene, sta andando come radio. Almeno io ti ascolto bene. Avanti Gianni. Kappa, no, anche io l'ascolto bene. Magari come stava regolando poco fa qualche picco basso, un po' più, diciamo, con qualche disturbo, ma nel complesso è perfetto, va bene, molto bene. E niente, dove vai la baden di su un coso in internet? E niente, pare goccolito. Perché dice che ci vuole tipo qualche giustino o qualcosa, ma io cazzo giustino, quello vostro vuole cerchetti di lui, di un caffè, per il collo, le vostre mascarette. Sì, va bene, capito. Tranquillo. Chi gioco il buio bigliare? Una concorrita a bigliare già. No, ma tipo, che poi è una gassata, mi è tipo un cannaizzetto piccolino colorato con una campanellina, e invece un signore, ho visto che l'ha fatto lo stesso coso e l'ha portato un tappo di suolo di sfumante, quindi tanto vari per voi, perché dice quando è tipo vicino alla secca gli si grubigliano a tombare, ma sarà, però tutto può essere, tutto può essere. Devi esplorare tutto, come ti dimmi i limoni, da? Sì, no, ma allora lo sai cos'è? Che i coccolisti, quando per esempio fanno i pulcini, diciamo così, se tu poi lo allevi, il coccolito, non mi ricordo come si chiama il gergo del pappagallino, capito? E dice che se tu lo addestri parla come il pappagallo grande, capito? E quindi se li metti tipo il giochino, si Budini prende più confidenza col padrone, capito? Perché quando metti le cose dentro la gabbia, se metti le mani dentro la gabbia non si spaventa, rimane tranquillo, puoi lasciare lo sportellino aperto e viene da te sulla spalla, capito? Però, cazzo, secondo me ci vuole un lavoro Iuia di Badenza. A parte il lavoro che ci vorrà anche esperienza a fare una cosa del genere, devi sapere come comportarti con loro. No, perché praticamente quando è piccolino, che è abituato a vedere a te che metti da mangiare e da bere, tipo lasci tipo lo sportellino aperto, c'hai tipo il semino in mano, oppure il ciuffetto di quella specie di mangime che si chiama panico, che è una specie di spiga, allora lui viene, capito? Tranquillo, rimane a suo agio, mangia da sé, e poi si dorà dentro la gabbia, a che è abituato di più, compreso, essendo in un ambiente chiuso, in una camera chiusa, anche se svolassa, che magari sale sulla scrivania o sul mobile, che cosa, però da buio e andarci senza dentro la gabbia si visola, si bradito, compreso. E il casino è che addomesticando ne puoi addomesticare uno, non è ne puoi addomesticare due, a questi non ne dovrà fare. Questo sì, una russa. Io dico, se da minoreggio proprio appena nato, questo dai quanti apri luci dice che sei la mamma. Ti bigliava come ti sei la mamma là. E allora mi biglia va brutto cervo, mi biglia, dici, ma che è questo? Questo bolifemo ci manno, che è? Io sono belli, se parlano sono ancora più belli. Io ma infatti va, vediamo, a me basta che faccio il tempo e sono tranquillo, magari ad lui e cosa. Tutto si può provare a fare, tanto cosa non è che me ieri stavo parlando con un amico che praticamente si è facciato un tuo cinetico, cazzo, che è un casino, ha detto che è andato da un luogo a un'officina e non so quanto pulire, E alla fine la gente ascolta un attimo, mi chiedo il numero di Davide, mio fratello, e ve l'ha fatto Davide, che l'ha fatto. Io sono scenetico. Sì, vabbè, secondo che macchina è, va bene, ma se macchina, sono macchine ultimo grido, un casino. Praticamente, allora, non è come tipo la Renault, la Fiat, che c'hai due bulloni giù, praticamente c'ha tipo lo strozzo a cravatta nel trapezio e devi mollare l'ammortizzatore per abbassare il trapezio, perché ci mi ha detto tanta di quella roba davanti che per estrarre il semiasse è un casino. Poi c'ha Davide quella specie di imbuto, però non è un imbuto, è un imbuto tipo di ferro dove puoi anche entrare la cuffietta senza togliere il semiasse, capito? Però devi avere uno spazio libero per poter mettere quella specie di chiave, che così metti appena di olio, infili la cuffia, si allarga e poi metti le faccette, quelle, adesso non me lo ricordo come si chiamano, quelle grigie che le stringi strane, capito? Ho capito, sì. Vabbè, ma sempre il mosso devi togliere da dove c'è il disco, il codifreno, sempre il mosso devi togliere, anche se c'hai quella chiave che te la allarga la cuffia e te la mette da lì, però sempre il mosso devi togliere, ed è un casino. E infatti nel kit che ha preso c'era il bullone nuovo, la rondella nuova, la cuffietta e il giunto mocinetico, perché una volta che poi estrai il giunto mocinetico sempre con una chiave tipo a estrattore e poi la cuffietta ti può venire a punire la 30 lusemiasse e così non fai il doppio lavoro di mettere tipo la larga cuffietta, capito? E mi ha detto insomma un bel lavorettino, comunque chi se fa di questi 50 euro, giovane viene rubato. Gli avrei bisogno di 50 euro in gif per fare questi travagli, c'è di più. I meccanici ti chiedono quello che ti chiedono perché c'è tanto lavoro, ma un bel di travagli. E infatti, non so da chi è andato, mi sa che è andato da quello della stazione, il Vessobra, ha detto che voleva 780 euro a Piazza Allegri su Gorgi. E invece con Davide l'ha detto me, io a vedere come te, tanto che oramai lo sa già come ti funziona, che si cade per cavardenti. L'ha detto, mi dai 60 euro, l'ha detto dammi 50 euro e mi arrivo un pacco di sigarette, cosa vuoi a dire? Capito? E più o meno si butti la danza così, tanto poi viene di nuovo se succede un inconveniente, invece se lo strutti per il collo alla fine non vi viene più. Vabbè, io non so nulla, non so, capita, ma ti vai. Vabbè, ma tanto ci vuole mezz'ora, 45 minuti a fare quel tipo di lavoro. Poi magari a Ghidu rivasi la guarnigione Bunterie, a Ghidu magari rivasi di Ganasci e nella giornata ti fai sempre quelle 150, 200 euro, a 50 euro a testa, già niente. Se lavori invece, come ti dimmo, selvaggio di Ghidu, che a Saravini sì ti fai un bel di soldi, ma la clientela ti rimangono due o tre, compresa i miei problemi di scorsi. Lo so. Ma uno va a dire quasi usci 50-50 e anda. Però visto a Gattobari non vuoi prendere nulla. E praticamente ci ha preso il ricambio e risiglia la macchina e lui ha detto mi accorta ma l'ho visto a virare, tu sei così, l'ha detto a io che te lo bonghi, da voi l'ha parato la macchina della moglie, l'ha portato i freni nuovi, pastiglie davanti, ganasce di dietro, la pigliata da 60 euro e sto già sentito. Tanto, compreso, ma è in una giornata che hai fatto 110 euro, ma in giro di 2 ore, di 3 ore, che poi 3 ore se lavori dalla mattina sono la mezza giornata della mattina, poi magari il pomeriggio si teci che si sta da smontare tutte e palla, lì c'è un altro tipo di impegno di lavoro, assistere la buccia, la devi buttare a sacca, la devi spianare, comprare la guarnizione, asciugante, inghivi, dando battoni di cusentero, compreso, ma però è un altro tipo di lavoro, perché poi non è solo fare la testata, perché poi lì ci vuole la cinghia di distribuzione che ha sempre di prendere il padrone e la pompa dell'acqua, anche se noi è inutile fare la distalda e non pone i raschiamenti nuovi, si copieggia subito tutto. Sì. Vabbè, uiuia. Beh già, io di mullo che devo scendere giù e ci sentiamo. Andavè, dai, allora fra appetito, buona domenica, nel caso ci sentiamo sto pomeriggio, che dopo pranzo mi faccio una pennichella, perché oggi con questo cambio d'orario ne sono gubisato molto prima. Ho cambiato l'orario, sì. Va bene, dai, buona pranzo anche a te, buon tutto, dai, ce lo sentiamo. Ciao anche a Gavino, se è all'ascolto. Buon pranzo, buon tutto, ci sentiamo magari più tardi, di stasera, va. Cappa, anche io saluto a Gavino, e anche a Cuburuio, avanti. Così mi bevo un goccino d'acqua e niente, faccio un'altra cosa. Andate, ciao a tutti. Sì, ciao.